Casa resistente delle sorelle Montagnana. Parlare delle donne della famiglia Montagnana non è semplice. Spesso quando si ricorda qualcuno che ha attraversato la storia lasciando un segno, lo si rappresenta attraverso l'epica, la straordinarietà delle sue azioni. Le persone diventano eroi ed eroine da amare, portare ad emblema e in qualche modo rinchiudere nel mondo dorato del mito. Gli eroi sono perfetti e lontani. Le Montagnana ci raccontano di una storia diversa e per questo emblematica. Donne intense, di una famiglia che sapeva trasformarsi in comunità includente, aperta, tenace e morbida. I racconti di chi c'era parlano di una casa aperta come uno spazio sociale, ricolma di libri, riviste clandestine e non, cibo condiviso poco o tanto che fosse. Le compagne Montagnana, Clelia, Elena, Rita, Gemma e Lidia, erano ognuna militante ed ognuna consapevole ed attiva in modo personale e diverso. Clelia, la maestra, giovanissima, guidò le manifestazioni già durante la prima guerra al motto «O si fa sul serio o niente», arrivando insieme a Rita a dar fuoco alla chiesa di San Bernardino, colpevole di essere magazzino dell'industria bellica. Clelia, che portava centinaia di donne ai comizi nei paesi di provincia per la sua capacità di raccontare e incendiare le anime di donne semplici ma curiose. Elena e Rita, militanti anche loro dalla prima guerra, subirono l'esilio, la morte dei congiunti in carcere politico e battaglie senza mai ripiegare, senza perdere la forza. Rita fu parlamentare e una delle troppo poche donne della Costituente. Gemma, la maggiore, con i suoi 4 figli portati con serenità e senza timore, in mezzo anche alle più feroci manifestazioni tra le due guerre. Presso di lei, insospettabile ai tempi in quanto madre, si nascondevano i testi più pericolosi. E infine Lidia, che racconta di come la loro scelta autonoma di emanciparsi dalla cultura patriarcale sia naturalmente avvenuta abbracciando la causa socialista prima e comunista poi, e del loro andare giovanissime e sole alle riunioni tornando a tarda notte, attraversando 2 guerre ed il fascismo. Le Montagnana erano anche questo, donne che hanno rifiutato la società patriarcale e i cliché di genere. Non si occupavano delle faccende domestiche, né della cucina. Non cercavano marito, non si preoccupavano dei malpensanti, si occupavano invece dei legami sociali e della lotta, della loro propria crescita, di chi ne aveva meno di loro e di chi non aveva strumenti culturali o pratici. Si occupavano di loro stesse e della loro comunità, si occupavano della propria dignità e libertà. Vorremmo chiudere questo intervento ricordando Consolina Segre, la madre, nata nel 1868 e fulcro di un'intera famiglia che seppe far diventare comunità mantenendo umanità e individualità, crescendo gli 8 figli in maniera completamente paritetica, lasciando che ognuno di loro seguisse la propria identità in maniera concreta e colma di valori. Moltissimo ci sarebbe da raccontare su questa famiglia, straordinariamente normale, ma vorremmo chiudere con un'immagine. È il 1944. Consolina, in clandestinità in quanto ebrea, torna in via Monginevro facendo tappa durante un viaggio nato per far visita a un nipote partigiano sulle montagne. Trova i sigilli sulla casa che ha tanto amato e condiviso. La casa ormai è semidistrutta. Lei si accascia, ha 75 anni, viene accolta dai vicini ed amici, si rialza, forza i sigilli e va a dormire a casa sua.